La nebbia gli irticolli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando. Sta il cacciatore fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come soli pensieri, nel vespero migrar.